Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Luigi Pardo, ma cos'è questo casino? Ma che ne so, cos'è questo casino? Buongiorno a tutti, come va? Ciao, tutto bene, stai prendendo l'aereo, stai sulla scaletta dell'aereo al Charles de Gaulle de Paris, giusto? Sì. Magari poi ci risentiamo dopo se riusciamo con i tempi dell'aviazione. Sì, comunque ci siamo divertiti, io mi sono divertito molto. Tutto il mondo si è divertito, dai, con questa squadra, ma poi diciamoci la verità, al di là di Ibrahimovic, per cui facciamo un tifo clamoroso. Insomma, li chiamano le Italien de Paris, no? Cioè la Serie A che va verso la semifinale di Champions League, forse la rivincita del calcio italiano, certamente una grande partita. In realtà è una partita strana, nel senso la rivincita dei talenti che hanno giocato in Italia, la vecchia fattore sono i decisivi, Cavani molto meno, Cavani e Ibra molto meno, tra l'altro Ibra si è anche fatto male, quindi dovrebbe saltare anche almeno le semifinali eventuali. È stata una partita equilibrata, una partita che il Chelsea sicuramente non meritava di perdere 3-1, nella quale a un certo punto sembrava anche in controllo, però poi gli episodi e l'imponderabile, diciamo, soprattutto sotto forma di autogol, l'hanno fatto girare, e poi Pastore ha fatto un capolavoro. Adesso è dura, ma non impossibile, secondo me, per il Chelsea. Dura, ma non impossibile. No, ma fammi capire una cosa. Tu hai detto Ibrahimovic potrebbe saltare le semifinali? Sì, perché pare che il problema muscolare sia... Un mese. Quindi di che parliamo? Quindi diciamo che c'è un'eventualità solo per la finale, sì. Un'eventuale finale, e quindi anche se poi alla fine Paris Saint-Germain senza Ibrahimovic gioca con Cavani punta centrale, e comunque insomma è uno che quel ruolo può farlo, anzi mi sembra veramente molto frustrato nel fare il terzino come è successo ieri sera. Certo, ma mi faceva giustamente notare il signor Piantanida prima, che leggi la panchina del Paris Saint-Germain, guarda chi entra in campo, entra Pastore, entra Lucas, 40 milioni di euro, sta seduto Marquinhos, guarda la panchina della Juventus di stasera, Peluso, Lichtsteiner, Osvaldo e Llorente, che stanno entrambi seduti insieme a Giovinco, perché dovrebbe giocare Vucinic, poi c'è Storari e Padoin. Insomma, sì, la differenza tra le due forse è questa, Sicuramente, la panchina del Paris Saint-Germain però è una panchina super, cioè la rosa del Paris Saint-Germain è una rosa super, gli investimenti sono incredibili, già se tu confronti la panchina della Juve con quella del Chelsea, insomma già c'è più normalità. Sì. Detto che insomma c'era Obi Mikkel, c'erano tutti giocatori abbastanza normali, per cui secondo me qui è più l'eccezione del Paris Saint-Germain di quanto possa essere un problema della Juve. C'è un problema oggettivo di indebolimento del calcio italiano, considerato che la Juve è la squadra capolista, la più forte degli ultimi anni in Italia, sicuramente, però le manca qualcosa per essere all'altezza delle grandi scelte d'Europa. Questo è un vecchio tema e secondo me si risolve solo con investimenti strutturali, e noi dobbiamo renderci attraenti perché questi investimenti possano arrivare, non è che c'è molto altro da fare. Altrimenti Sirigu, Thiago Silva, Maxwell, Verratti, Thiago Motta, Cavani, Ibrahimovic, Lavezzi, Pastore, Marquinhos e Menez, che ieri sera non c'era neanche in panchina, 11 che vincerebbero il campionato in Italia, vanno all'estero, e questo è normale. Ma a proposito del Chelsea, a parte che il Chelsea secondo me non appartiene più in questo momento a quella crema assoluta del calcio europeo, il Paris Saint-Germain sì, Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona e forse ci possiamo pure fermare qui, però leggevo le pagelle di Paolo Condò, scrive: Mourinho voto 6, gli manca il centravanti e le scelte di formazione sembrano un memento per Abramovic, cioè occhio perché non siamo più appunto in questa elite assoluta. No, questo senz'altro, non siamo assolutamente in questa elite. Il Chelsea è più debole per il Paris Saint-Germain, l'avevamo detto ieri in fase di presentazione, il Paris Saint-Germain ha più talento in assoluto. Come somma di talento non c'è partita, devo dire che ieri si è visto, per buoni tratti del primo tempo, un Chelsea migliore dal punto di vista dell'organizzazione tattica. Cioè Mourinho secondo me gliel'aveva pure incassata bene, sì, certo. Dopo la partenza col gol per i Saint Germain il Chelsea ha reagito molto bene, ha fatto il pareggio, e alla fine del primo tempo le sensazioni erano abbastanza blues, abbastanza favorevoli al Chelsea, quindi poi la partita è girata secondo me in maniera abbastanza casuale. Sì, è chiaro che se hai dei giocatori di talento incredibile come Pastore, come Cavani, come Ibrahimovic, come Lavezzi, Menes addirittura appunto era fuori perché è stato raffreddore rimediato in un barbecue, ma insomma davvero? Chiaramente una scusa, insomma, e voglio dire, questa gente qui è gente che la giocata ce l'ha sempre e quindi la può tirare fuori in qualsiasi momento. Io comincio una campagna per Verratti. Bravo, in nazionale, bravo, cominciamo perché subito in questo istante la campagna Verratti in nazionale, chiamiamo anche il Pueblo 800240024, perché questo da nazionale, come fa a star fuori questo da nazionale? È chiaro che è l'alternativa a Pirlo, e quindi capisco benissimo che Pirlo abbia da mille punti di vista ti faccia preferire più di ogni altra cosa l'esperienza, però secondo me avere un altro giocatore, un altro playmaker di questa qualità nel gruppo dei 23 è abbastanza assolutamente decisivo. Può essere Motu, che poi sta giocando delle partite sinceramente che altri in Italia non giocano, ma certamente, ma poi dato che è lui il futuro, quell'aria deve cominciare a respirarla subito, non dopo Pirlo aspetta con calma vieni, no, sarà il vice Pirlo, va bene, allora lo portiamo, gli facciamo respirare l'azzurro, lui è sempre azzurro tutte le volte che gioca l'Italia, e poi va ai mondiali e poi vediamo, poi sarà titolare. Problemi di personalità non ne ha, no, questo è il problema contrario, l'ho sottolineato anche ieri in telecronaca, che lui spesso flirta col fuoco, rischia delle cose abbastanza clamorose e qualche volta potrebbe anche andare male, perché ieri ha rischiato di fare due tre partici, però poi riesce quasi sempre con grande sicurezza tecnica. Senti, devi prendere l'aereo, devi pigliare l'aereo. Ci sentiamo dopo, se lo perdi è un disastro. Ciao Pardo, a dopo. Tra strade, poi di nuovo qui ovviamente 800240024, la Roma, altri argomenti ovviamente per voi. Tutti convocati. Pigliare però mi fa piacere perché è un giocatore che stimo molto, è vero che prende un po' di rischio, però giovani, ancora 21 anni, ha un passo di è importante da fare, perché è un giocatore giovanissimo, però mi piace i giocatori che prendono la responsabilità. Perché a me moltissimo, in Italia spesso preferiscono i ragionierini, no? Quelli che fanno il loro compitino, poi tengono le orecchie basse, non fanno nessuna dichiarazione, bravi, umili, ben pensati, no? A me piacciono quelli un po' più geniali, e Verratti quantomeno è uno che ha la faccia tosta necessaria per essere un giocatore vero ad alto livello, come abbiamo visto ieri sera, e come potrebbe essere con la maglia azzurra. Tanto continuo a pensare, e aspetto anche vostre testimonianze, e sia una follia quella di dire ma ci sono Pirlo e De Rossi, loro saranno i titolari ai mondiali, quindi Verratti sta lì in naftalina perché tanto è ancora giovane, perché in questo paese sei giovane fino a 40 anni e quindi può aspettare. Ma che aspettare? Cioè, quando uno è così, quando uno ha questa personalità, è l'unico centrocampista italiano che sta giocando ancora in Champions League, ma la finale nel mirino, magari potrebbe vincere, io sarei felicissimo se la vincesse personalmente, ma tutto il calcio italiano dovrebbe esserlo. E va bene, allora lo lasciamo questo a casa, portiamo la solita banda di ragionieri, cioè quelli che conosciamo bene, magari vicini ai 30, magari collaudati, magari rodati. Questa è una follia per me. Adesso vorrei parlare un po' di Roma, ma prima stavo dando un'occhiata ai messaggi SMS mentre arrivano su Ibrahimovic. Abbiamo sentito prima Pardo, è in volo in questo momento, ma poi lo acchiappiamo appena scende dalla scaletta dell'aereo. Arrivano notizie sempre più preoccupanti sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Addirittura c'è chi parla di stagione finita per lui, comunque è un infortunio muscolare serio. E io penso che gli dei del calcio non possano essere così cattivi e perfidi da lasciare Ibrahimovic con la sua storia e con 10 gol capocannoniere della Champions League in questa stagione fuori per gli atti finali. Non voglio credere che gli dei del calcio possano essere così perfidi, cattivi e malvagi. Roma dunque, la partita più pazza del mondo. I primi 8 minuti sono stati qualcosa di mozzafiato ieri sera nel recupero. Garcia alla fine. Abbiamo 9 punti adesso sul terzo e meno 8 sul primo, sapendo che il primo deve venire ancora a Roma, la penultima giornata. Dobbiamo andare avanti e soprattutto dobbiamo andare avanti perché se c'è una chance di raggiungere la Juve la dobbiamo giocare in Maragrande. No, io sono solo allenatore della Roma, quello che voglio è vincere domenica a Cagliari, è solo così che possiamo mettere pressione sulla Juve. Allora, 4-2 alla fine, partita più pazza del mondo, dicevo, tutto compreso, la pioggia, sospensione dopo 9 minuti, la ripresa del gioco con una rimessa laterale, una chicca assoluta, e poi questi primi 8 minuti pazzeschi, onestamente, tra Roma e Parma. A commentarli per Sky c'era Claudio Onofri. Ciao Claudio. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Come stai? Tutto bene? Bene, tutto regolare. Senti, ieri stavano dicendo che non chiamare Verratti è una follia, ma in questo paese piacciono molto i ragionieri. Verratti non lo è, perché è uno che ha dei lampi di genio. Ieri altri due che non sono ragionieri potevano trovarsi faccia a faccia ieri all'Olimpico, cioè Totti e Cassano, i due candidati tra i più chiacchierati per l'Italia, però il dibattito diretto in Italia non è molto di moda, Cassano si è chiamato fuori e Totti si è preso il palcoscenico. Sì, in effetti è mancato un pochettino questo scontro tra due fuoriclasse, anche se le mie preferenze onestamente vanno al romanista, perché sì, poi la carriera parla chiaro, qui parliamo di 235 gol in Serie A, 21 anni, giocati sempre, quasi sempre ad altissimo livello. L'altro purtroppo per problemi che tutti conosciamo non ha saputo dare continuità a un rendimento che pretendeva, viste le qualità eccezionali anche dal punto di vista tecnico, certo, però insomma è stato molto più altalenante. Non ha spremuto se dovessi fare una scelta, prendere certo, i Totti, ma non perché... È chiaro che è anche più vecchio e puoi anche trovarti con uno che magari da un momento all'altro non può giocare. Sì. Lo vedremo da qui alla fine come sarà, però il Totti di ieri è un piacere vederlo giocare, anche per i neutrali, diciamo, non solamente per i tifosi romanisti. Io sono un tottiano convinto, lo sarò sempre, ma tu stai parlando di mondiali, cioè tu dici mi porterai questo e non quello? Sì, io stavo parlando di questo, sì, nel senso che insomma si parla ancora di una possibile scelta di Prandelli riguardo appunto uno dei due o tutte e due o nessuno dei due. Mm-hmm. Il Totti visto ieri è un'immagine che ti rimane impressa ormai da tantissimi anni. Ma questo sicuro. Ieri poi ha fatto qualcosa veramente di speciale, che insomma... Vede il gioco, io lo ripeto sempre anche in cronaca, perché è una cosa che dicevo di un giocatore che si chiama Riquelme, no? Sì. Che quando andai a vederlo per il Milan, ero osservatore al Milan e a Buenos Aires a vedere una partita e stava praticamente esordendo. Mm-hmm. E questo è un giocatore che dalla tribuna tu non riesci a vedere le giocate che lui vede dal campo. E Totti è la stessa cosa, ogni tanto ti inventa una cosa e dici ma io non l'avevo visto quello che è sbarcato, dalla tribuna è un po' più semplice. Sono dei visionari, ma a noi piacciono così, come Verratti, prima ne parlava con Pardo, no? Sì. fa delle cose non banali, cioè non si accontenta della normalità, ma sono questi i giocatori che servono per vincere. Ha fatto no? un cambio di gioco per Maicon che poi ha tirato di piattone e per poco fa gol, ha fatto una buona parata al portiere appunto. Sì, è anche vero. No, ti dicevo, è anche vero. Il cambio di gioco gliel'ha messa sul destro e voleva metterla proprio lì sul destro. Assolutamente. Perché sapeva che Maicon era destro. Però ti stavo per dire, mio caro, che sono giocatori, vabbè, Totti e Riquelme sono uno una cosa, uno un'altra, ovviamente, però sono giocatori che soprattutto se gli lasci tempo e spazio ti ammazzano. E a proposito di Parma e di Primavera, è un po' la stagione delle beneficiate questa, tanto che sono convinto che alla fine, per dirla chiara, oltre alla Fiorentina saranno Milan e Inter in Europa League, non Parma, Verona, Torino, Atalanta. Sì, ritengo di sì che ci siano queste probabilità, vedremo. È chiaro che questo campionato sta dicendo che insomma il livello delle prime tre, ovviamente scaglionato così come lo dice la classifica, anche se magari il divario tra Juventus e Roma è meno netto rispetto a quello che le due hanno sul Napoli, che lamenta sempre un pochettino una mancanza un po' di equilibrio di gioco tra la fase offensiva e quella di non possesso e comunque un target complessivo nei due reparti, difesa e centrocampo, meno appropriato a certi livelli rispetto appunto alle due squadre che citavamo. Io insomma, due giocatori come Benatia e Castan, oggi in qualsiasi squadra giocherebbero, anche, anche tra le prime tre. Pjanic è un fenomeno, Pjanic è tipo Iniesta, ecco, cioè, ma, chiaro, adesso sembra quasi una bestemmia, ma perché parliamo di uno dei più grandi giocatori al mondo, ma a questa tipologia di gioco, nello stretto dribbla come bere un bicchiere d'acqua e poi alza la testa e vede tutto e verticalizza, e verticalizza sempre, e come dicevamo prima sono questi giocatori che ti fanno vincere le partite, che sono i trasformatori del voltaggio, no? Che aumentano il voltaggio della, della squadra, assolutamente. Ma poi anche da un punto di vista proprio simbolico, per quanto rappresenta lui, giocatore di classe, ma con un'aggressività, con una voglia che lui stesso trasmette come un braccio interno al campo rispetto ai voleri dell'allenatore. Ieri gli ho visto sul 4-1 fare 30-40 metri di campo senza palla per ricevere un lancio di Maicon, con una voglia di andare a fare il quinto gol. Mi sembrava veramente, cioè, che fossero ancora 0-0 e lui dovesse decidere la partita. Queste sono cose significative per quanto riguarda giocatori che sì hanno classe, ma se non hai il carattere, ecco, tornando un po' al Cassano della, della carriera, non questo del Parma, chiaro, che sta facendo molto bene. Insomma, sono componenti fondamentali. No, ma questo è chiaro. Ma poi la, la Roma, onestamente, è la squadra più bella da aver giocare. Cioè, almeno è quella, la squadra italiana a cui io mi approccio più volentieri quando devo vedere una partita. Direi che ci sia per fare il commento. No? Cioè, è una squadra di elevato numero di ottani. Un super alcolico, come volete voi, è una cosa così la Roma, anche se adesso onestamente corre leggera, deve vincere sempre, è vero, quelli che stanno davanti sono troppo lontani e lo sappiamo, è come quello che è dietro in macchina in un Gran Premio e dice vabbè, se quello si spacca vinco io, però non è che... Ecco, sì. Credo proprio che sia così, è giusto che ci credano, perché giocando in quella maniera le possono vincere anche tutte, hanno la partita con la Juventus in casa e quindi è chiaro che ci può stare che il pensiero vada al primo posto e non al mantenimento del secondo, che è quasi scontato secondo me in questo momento, però è chiaro che anche davanti hai una corazzata, che sarà interessante guardare negli occhi questa sera a Lione, per capire se in campionato hanno magari anche emotivamente o inconsapevolmente risparmiato, se si sono convinti che comunque questa Europa League per loro e per la loro dimensione e anche per la dimensione di Conte è molto importante. Certo, un ritorno comunque a livello europeo di immagine che la Juventus, del quale la Juventus ha sicuramente bisogno. Tornando alla Roma un attimino, perché qui parliamo della Roma attuale, ma c'è un progetto veramente, io ritengo senza piaggeria, perché insomma Sabatini è uno dei più grandi talent scout che ci siano al mondo, perché noi ieri avevo fatto proprio con il loro direttore, l'amministratore delegato, adesso non ricordo bene, comunque Baldissone, una formazione che non comprendeva tutti quelli che avrebbero poi giocato con il Parma, ma parlavamo per esempio di Toloi, di Cezvai, di Romagnoli, di Dodò, dello stesso Pjanic e dello stesso Strootman, che sono classe 90, Florenzi che è un 91, Ljajic e Destro sono 91, l'unico che andava fuori perché dell'87 era Gervinho in quella, in quella formazione. Cioè, voglio dire, c'è anche un progetto, una programmazione, perché questi sono ragazzi, Romagnoli e Jedi sono giocatori del 95, ma hanno un prospetto interessantissimo. Che è esattamente quello che manca all'Inter. Infatti io fossi Toir, il primo colpo di mercato, Sabatini, subito. Ma l'ho detto mesi fa. L'ho detto mesi fa. Guarda, io ti dico su Sabatini, no, lo ripeto appunto quando magari qualcuno mi chiede della Roma o comunque parlando appunto di calcio in generale. Questo forse non depone neanche tanto a suo favore, ma ogni calciatore che ha preso negli anni sia alla Lazio che al Palermo, che oggi alla Roma, e che a me capitava di conoscere, nel senso che l'avevo visto esordire negli anni, erano tutti giocatori che per me erano eccezionali e poi si sono rivelati tali. Quindi voglio dire, è veramente uno che sa scovare i talenti e poi sì, sa trattare immediatamente perché li prende. Ecco, è uno che non sbaglia mai. È uno che solo a guardarli. Sbaglia pochino. È uno che sbaglia pochino. Claudio, io ti ringrazio, ti abbraccio. No, grazie a voi, ciao. Grazie, ciao, Claudio Onofri. Ci fermiamo per la borsa e poi cominciamo a parlare con voi. 800 24 0024, numero verde. Tutti convocati. Io sorrido per un semplice motivo, tanto questa era una trasmissione ironica. Due ore da onesti e due per il malaffare, due ore da galli e mille da zanzare, due ore per l'inferno, due per cantare messa, per ritentare il gioco per tutta la scommessa. Due ore per decidere se prendere o lasciare e scoprire che non sempre c'è di mezzo il mare. Allora, Franco Piantanida, autore di questo programma e Fabio Cantore in regia, mi impongono di imparare a memoria questa canzone, cosa che farò, poi ve la canterò anche se volete, ma forse ne dirò, Fatto sta che tempo ne avremo, perché da lunedì due ore di Tutti Convocati, dalle 14 alle 16. Io non mi ricordo di aver dato a Sabatini del delinquente insieme a Liguori, come scrive uno che mi dà dell'ipocrita. Sinceramente non, ma poi non saprei per cosa. Sabatini secondo me è l'MVP dei dirigenti calcistici italiani, semplicemente, ma basta guardare la squadra che ha costruito. Ma sinceramente del delinquente, ma a proposito di cosa ha ridato a Sabatini del delinquente, mi scusi caro ascoltatore, caro signor ascoltatore, vabbè, Pjanic come Iniesta era ovviamente una forzatura, almeno Pjanic fosse, almeno per la Roma, se Pjanic fosse come Iniesta, non lo è ancora, però ha delle caratteristiche importanti per le quali può ricordare Iniesta. Certo che siete un permaloso impressionante, voi soprattutto tifosoni, no? Perché non si può dire una cosa e vi inalberate come nelle Iene. Per non parlare, ma magari lo faremo, delle parole di John Elkann ieri, che troneggiano su tutti i giornali, addirittura taglio altro, prima pagina su Corriere dello Sport. Elkann attacca l'Inter, il presidente della Fiat perde spesso, spero continui. Io trovo trovo parole abbastanza banali, che poi in questo paese banali non sono, perché è pieno di gente che si inalbera. Ma se no, insomma, John Elkann, interrogato da un bambino a un convegno, dice: ma perché l'Inter perde così spesso? E Elkann risponde: io non lo so, ma spero che continui a farlo. Vabbè, io le trovo parole abbastanza banali nel dialogo tra Elkann e un bambino. È chiaro che Elkann non è uno qualunque, però lui ha detto esattamente quello che pensa ogni tifoso della Juventus e esattamente quello che pensa ogni tifoso dell'Inter è: spero che la Juventus cominci a perdere e non la finisca più. Gianluca Vairona, buongiorno. Sì, ciao Carlo, ciao. Grazie per avermi convocato. Grazie a te. Sei veramente un grande, complimenti. Grazie. Ascolta, io sono tifosissimo del Chelsea, sì, e volevo esprimere il mio sdegno per lo spettacolo ignobile di ieri. Spettacolo ignobile, non essere troppo tifoso, non si può stare 45 minuti senza tirare in porta il secondo tempo, sì, cioè, e dopo per il ritorno non è un problema fare due gol, il problema è non prenderli, hai ragione su questo, hai ragione. Però con Davide Luiz in versione cannabis di ieri in versione post vittoria Champions, ricordiamo quel siparietto con Pardo, proprio con Pardo, no? Ti lo ricordi? Deve ancora smaltire la sfornia del, deve ancora smaltire la, ancora ingranato ancora da lì. Allora sì, no, ma però secondo me esageri, perché hai usato degli aggettivi molto forti. È chiaro che la sconfitta 3-1 è difficile rimediare, eccetera eccetera, però la partita fino a quel punto si era messa bene per il Chelsea, o meglio si era messa come Mourinho l'aveva disegnata. Poi si diceva anche prima, onestamente, ma voi del Chelsea, mi fa un po' specie dire questo, voi del Chelsea, che attaccanti avete in questo momento? Cioè, Fernando Torres mi sembra ormai un giovane vecchio, no? un vecchio basta. Nulla. Appunto. Abbiamo fatto due stupidaggini: a dare Lukaku 2 anni in prestito e vendere Sturridge per prendere Dembaba. E ho detto tutto. Mourinho, ciao Gianluca. Ciao, grazie. Ciao, ciao Mourinho. No, io penso sempre che è possibile. Noi non siamo una squadra con queste possibilità in attacco di avere giocatori che fanno 2-3 gol per partita. Qui non ci sono né Ronaldo, né Messi, né Lewandowski, né Ibrahimovic. Qui no. Qui siamo una squadra che quando perde la sua compattezza difensiva sta in problema, però giochiamo in casa, non avevamo niente da perdere, siamo in una situazione ovviamente difficile. Io ho l'impressione che abbia visto giusto Paolo Condò, cioè sarebbe una roba tipicamente alla Mourinho, no? La formazione di ieri sera spuntata come era una sorta di memorandum di lista della spesa per Abramovic. Allora, quelli che ho sono questi, io te li faccio giocare perché non ne ho altri. E il giorno prima cartoccio il foglio della formazione perché mi viene paura solo a guardarla. No, quelli che ho sono questi, e dietro si è già detto, cioè, ma chissà se ha 32, 34, 45 anni. Vi ricordate quella gag che fece arrabbiare discretamente? Detto, però insomma, la realtà e la sostanza sono queste. Il Chelsea ha esaurito l'arsenale degli attaccanti e in questo momento non vale l'elite assoluta d'Europa, cioè quel consesso di oligarchi che sono, ma è inutile, lo sapete anche voi, le due spagnole, il Bayern e probabilmente il Paris Saint-Germain. Roberto, provincia di Parma. Buongiorno, grazie per la convocazione, complimenti. Senta, io Roberto, lei è tifoso del Parma? No, non sono tifoso, sono simpatizzante del Parma, ma secondo me il Parma in queste 3 partite ha giocato abbastanza bene con la Juve, ma le altre le due partite di Roma mi ha deluso. Ma secondo lei il Parma davvero vuole andare avrebbe voglia di andare in Europa? Ma secondo me assolutamente. Secondo me in Europa ci vanno per finire Inter e Milan. Anche secondo me, l'ho detto prima. Ci vanno Inter e Milan perché il Parma fa la fine del Verona. Adesso in primavera mi dispiace molto perché... Guardi, volendo essere un po' maliziosi, la primavera è la stagione delle fragole, delle rose e delle beneficiate. Perché, diciamo, guardi che la partita con la Roma, che è superiore, ci mancherebbe altro, però sembrava una partita di allenamento ieri sera, perché certo, ma sono d'accordo, una partita di allenamento, non c'è stato un fallo, diciamo, una meravigliosa kermesse, un sacco di spazio, non è un episodio. Invece ecco, a me dà fastidio perché io sono un parmigiano, per esempio quando giocano, non so, perché con la Juve si sono lamentati per un rigore che ci poteva essere e non essere, perché i due arbitri di media se ne hanno, ma per me che sono parmigiano sono 3 punti, tanto quelli con la Juve come il Sassuolo. Assicuro. Cioè io vorrei dei punti in classifica, poi le può perdere anche tutte con Juve e Roma, basta che vada in Europa League, ma non ci vogliono andare secondo me. Esatto, beh, il punto è questo, detto fuori dai denti, ma perché? Ieri, ma io li capisco. Con la Roma si perdeva, si sarebbe perso, però in si sarebbe perso lo stesso, però vedi che con la Juve qua c'è una rivalità, e sì, capisco che c'è rivalità. Ma ci sta, cioè, ma vince una partita con la Juventus è una bella medaglia sulla maglietta del campionato, anche con la Roma, sì, quindi sì, con la Juventus c'è una rivalità che sembra che, insomma, qua le televisioni di Parma hanno continuato, che è stata una partita che doveva finire in pareggio. Sì. Sì e no, perché io ho sentito gli arbitri di media, se ognuno dice il suo modo, io non lo so. Però al di là di questo, lasciando stare gli episodi arbitrali, sì. Io ho l'impressione che il Parma, dopo quella spaventosa e meravigliosa serie di risultati utili consecutivi, abbia un po' allentato i freni. Ma poi magari inconsapevolmente. Teniamo presente, signor Gente, che a parte le prime 3 c'è un campionato che è più mediocre di così. Adesso la Roma e la Juve sono grandi squadre, però li possono vincere, cioè li vincono tutte, cioè mica è possibile, se ci fosse appena un po'... Roberto, però il Bayern ha vinto il campionato matematicamente a marzo. Cioè, quindi non è che dalle altre parti non ci siano queste squadre cannibali, quindi... Adesso quest'anno c'è la Spagna, un po'... La Spagna cosa? La Spagna per quest'anno. Beh, ma perché ce ne sono tre, perché normalmente sono due, quest'anno sono in tre che ballano la Legale, poi vediamo chi si alza... Al volo, posso fare una differenza fra le due squadre italiane più forti e quelle straniere? Al volo sì. Sì. Dunque, come aveva detto anche lei, sono d'accordissimo con lei. Se io faccio Juve Paris Saint Germain con i titolari di qua e di là e che sono in a parità di, dipende com'è la condizione, secondo me la Juve e anche la Roma siamo su, secondo me, sullo stesso livello. Sono le panchine, che se tu guardi le panchine poi in 60 partite c'è la differenza poi fra il Paris Saint Germain e la Juve e la Roma. Anche perché quella del Paris Saint Germain costa 200 milioni di euro, butto lì, quella della Juventus 20 forse 20. È chiaro che queste squadre sono molto più lunghe dal punto di vista, molto più profonde dal punto di vista della qualità, quindi capita ieri sera esce Ibrahimovic, ti entra Pastore, questo ti risolve la partita, ti entra Lucas o ti entrano giocatori di questo tipo. Menez, c'era Parda, ha preso il raffreddore facendo un barbecue, si figuri lei, però intanto non è nemmeno spesso nelle rotazioni, insomma hanno un arsenale spropositato. Poi è chiaro, voi parlate di fair play finanziario, l'Inter parla di fair play finanziario, gli italiani parlano di fair play finanziario, tutte quelle che non hanno grandi disponibilità economiche parlano di fair play finanziario. Intanto questi quattrini, che gli arabi, i russi eccetera iniettano nel calcio europeo, convengono all'intero calcio europeo e quindi anche a chi parla di fair play finanziario, secondo me, ed è per questo è questo il motivo per cui voglio vedere che cosa succede, voglio vedere chi si prenderà la responsabilità di dire rinunciamo a quei quattrini, perché in nome del fair play finanziario, voglio vedere se succede. Tutti convocati. Se abbiamo uno scoopissimo, che è questo, un messaggio di Antonio da Brescia che scrive: Messi ha comprato martedì tramite un'agenzia una villa sul lago di Como, forse giocherà in Italia? Domanda Antonio. Dubito. Anche George Clooney ha comprato una villa sul lago di Como, perché è un bel posto, perché quelli che hanno i quattrini amano quel posto, eccetera eccetera, ma è come la storia di ieri, no? di Simeone che avrebbe comprato la casa in Corso Como. Ma fatemi piacere, diceva Totò. Allora, parliamo di Champions League, è vero, parliamo di lacrime italiane, è vero, ma io voglio parlare anche di gioia italiane, perché sinceramente dopo aver visto quella di ieri sera, 91-63, con il Barcellona piglia tutto, miglior difesa d'Europa eccetera, strapazzato come un uovo sul parquet del forum, beh, a me oggi viene voglia di dire una cosa, stiamo parlando di basket naturalmente, mi viene voglia di dire, poi il mio interlocutore che tra poco presento e già ringrazio, il mio interlocutore può fare, tanto non si vede, tutti gli scongiuri che vuole, però oggi, 3 aprile 2014, poi non so cosa succede il 5, 6, 7, 8 aprile, oggi l'Armani è la squadra più forte d'Europa. Presidente Livio Prodi, buongiorno. Buongiorno. So, lei... Come ha detto lei, buongiorno, come ha detto lei non ci vediamo, quindi non ci vediamo, per radio non si vede, può fare quello che vuole. Ho potuto fare tutti quei gesti scaramantici del caso senza offendere nessuno. Senta, però insomma la realtà dei fatti, no? Cioè il cammino, allora 7 vittorie in fila, la miglior Milano di sempre in Eurolega, grandi avversarie sbattute proprio per terra sul parquet del forum. Una Final Four che sarà in casa. Io posso aggiungere anche un dato statistico, cioè l'Armani vincendo sempre in casa, puntini, puntini, puntini, e poi se vuole le continua. Ma guarda, adesso è inutile, che non voglio fare l'uomo saggio, prudente, il falso modesto, però ci sono dei fatti che non dobbiamo dimenticare. L'abbrivio di stagione in questo momento è fantastico, i ragazzi stanno dimostrando con proprio l'approccio alla gara che sono solidi, e quindi tutto questo ci fa ben sperare, però rimane anche altrettanto evidente che noi negli ultimi 2 anni, dove spesso ci siamo in parte illusi di essere arrivati vicini a qualche traguardo importante, vediamo playoff dell'anno scorso, ricordiamo la Coppa Italia di quest'anno, cioè il conto finale dice che non abbiamo portato a casa ancora nulla, anche quando ci eravamo leggermente illusi di poter forse esserci vicini. Quindi l'esperienza dice di stare veramente calmi, che comunque arrivare a fare quell'ultimo piccolo passettino è la cosa più difficile poi alla fine. Questo è vero. E quindi le premesse sono buone. Io credo che invece il passaggio, la qualificazione alla Final Four sia ancora una cosa assolutamente difficile. Adesso vediamo, cerchiamo di capire chi sarà il prossimo avversario, senza timore, senza paura, ma senza illusioni che il tutto sia scontato. Potrebbe essere Maccabi comunque, potrebbe essere Maccabi o Galatasaray, vediamo. La cosa importante è sapere che in caso di un'eventuale gara 5 la giocheremo in casa, dove il fattore campo oggi è determinante, dove soprattutto potremmo stare insieme ai nostri 11.000 tifosi, una volta magari in più. E questo è anche un altro grande bel risultato, Presidente, questo secondo me è il grande risultato già raggiunto da Milano, perché il forum pieno e questo è già tangibile, no? Mentre per altre cose manca quel piccolo passetto, è difficile, lei ha ragione, però il forum pieno è segno che questa è un'altra storia. Ma guarda, io credo che il forum pieno sia la risultante di tante cose che sono nate anche gli anni scorsi, non è un risultato estemporaneo di ieri sera. La società ha seminato bene l'area di marketing, ci sono attività dietro che non si vedono ma che producono, hanno fatto crescere l'affettività del pubblico milanese sulla squadra, e principalmente c'è stato poi l'approccio, il messaggio che danno tutti i giorni i banchi e i giocatori, perché credo che il messaggio vero è quello che piace a tutti noi, al pubblico, a chi lavora e che sa che i traguardi si raggiungono col sudore e col sacrificio, cioè abbiamo sempre davanti dei professionisti che danno l'anima, e questo può che solo stimolare quello che sta accadendo. Quindi di questo siamo contenti e concordo con lei che è un risultato acquisito. Questo è già risultato acquisito per l'appunto. Poi lei non sarà d'accordo con me, o se è d'accordo non lo vuole dire, però io dico oggi l'Armani in questo momento è la squadra più forte d'Europa, o comunque una delle tre, mettiamola sul podio, una delle tre squadre più forti d'Europa. Può non essere d'accordo, può non dirlo se vuole, però rispetto a 9 mesi fa ha fatto un triplo salto mortale, nemmeno un salto mortale normale. Ma ricordo, aggiungo anche il fatto che abbiamo dimostrato di riuscire a stare ai vertici anche con degli infortuni importanti, che ci manca l'Enford da 3 settimane. Sì. Quindi questo è un altro elemento che ci fa pensare di essere mentalmente forti. Però preferisco dire la verità, siamo nelle prime 8 squadre d'Europa. Ah, prime 8, quindi sta leggendo. Siamo nei primi 8. Vabbè. Questa è la realtà. E io aggiungo un'altra cosa, che insomma gli anni scorsi invece con gli infortunati l'Olimpia si impantanava, quest'anno non succede, lo ha detto anche lei, quindi Langford la superstar fuori da tempo, eppure non si vede e non si sente. Io ho l'impressione che Daniel Hack sia stato il reagente che ha trasformato l'Armani, questa squadra, in una formula chimica perfetta, perché Gerrard è diventato un altro giocatore, perché ha fatto tornare qualunque tipo di conto. Posso anche dire che forse Hackett è il colpo più significativo, importante, emblematico della vostra gestione. Questo posso dirlo? lo può dire. Per me è significativo l'acquisto di Banchi. Sì. Significativo è la crescita di Alessandro Gentile. Sì. Assolutamente. Significativo è l'acquisto di Hackett. Quello sì. E comunque mi sento in difetto, perché questo è il risultato invece di una prova corale. Io oggi faccio fatica a nominarne tre. Certo. Mi piace ricordare la crisi di Cerella, che accende l'animo e la passione di tutti. Vorrei anche ricordare lo staff che c'è dietro, che nessuno nomina, che contribuisce molto. E voglio ricordare Flavio Porteluppi, che è il nostro GM amministratore delegato, e il quale sta conducendo dietro le quinte un lavoro di amalgama con Luca Banchi, e lo staff è importante. E poi abbiamo anche un fuoriclasse che magari pochi conoscono, ma che è il nostro preparatore atletico Giustino. La squadra funziona tutta insieme. La squadra funziona tutta insieme. Un lavoro psicofisico fatto veramente molto bene da tutti. Senta, Presidente, mi dico un'ultima cosa in un minuto, ma in un paese in cui si continua a parlare di stadi, vengono presentati progetti, eccetera, eccetera, il Palalido a che punto è? Oh, il Palalido in questo momento magico, dove sembra che tutto possa andare verso il meglio, forse vive lo stesso tipo di situazione. Ci sembra tangibilmente che i lavori stiano andando nella direzione che ci hanno promesso, target, la consegna ci è stata stimata per l'inizio dell'anno prossimo. Della prossima stagione? No, dell'anno solare. Dell'anno solare, 2015. 2015. Noi per programmazione chiaramente siamo tranquilli, abbiamo chiaramente il contratto col forum per i prossimi 3 anni a pieno ritmo, quindi fino a quando non avremo Pallalido siamo comunque coperti. Quando avremo il Pallalido potremo avere sicuramente la casa dove allenarci sempre con la prima squadra del settore giovanile, Toto, e poi ogni tanto ospitare magari le gare con, dove stimeremo di avere meno affluenza per magari far sentire un po' di più il calore del tifo, che chiaramente al forum si sente molto quando siamo in 11.000, magari si sente un po' meno quando siamo in 5-6.000, cosa che invece magari suonerebbe meglio. Magari è stata una sorpresa, cioè vi siete trovati di fronte a una cosa che secondo me è fondamentale, perché si parla tanto di case private, no? Invece che di case in affitto, sì. In Italia è molto difficile da realizzare anche se con quattrini privati, e questo non è qualcosa di inspiegabile, però magari è sottodimensionata a questo punto, basta guardare il forum di ieri. Ma guardi, chiaramente se il progetto potesse essere, se potevamo disegnarlo da zero in una zona senza compromessi con il passato, avremmo disegnato un palazzetto a 7-8 mila, ma tutti, anche il comune l'avrebbe fatto. Qui si è trattato anche di riqualificare un monumento, lo sport milanese, che tecnicamente impedisce di poterlo fare più ampio. Rimane il fatto però che l'area verrà riqualificata, anche il quartiere a mio avviso, con tutti poi dopo gli aggiustamenti che sono stati fatti per anche creare un qualcosa in armonia col quartiere, io credo che aiuterà tutti, una riqualificazione ambientale oltre che un impianto nuovo in più per Olimpia, non solo, per tutti gli sport milanesi, del quartiere. Ma si figuri, noi abitiamo qui sole 24 ore, a 2 passi dal Pallalido. Presidente, l'aspettiamo presto invece a trovarci. Va, senz'altro, un piacere, la ringrazio per avermi chiamato. E io ringrazio lei, grazie. Radioascoltatori. Grazie Livio Proli, presidente dell'Olimpia Milano. Allora, GR 800240024, poi tocca di nuovo a voi. Tutti convocati. Per la radio come Zuckerberg per i social network, no? E Pardo è il tuo associato lì di Google, lì come si chiama lì. Due ore di tempesta, 2 ore di sole, 2 ore di battaglie, 2 ore senza amore, 2 ore per trovare l'uscita di sicurezza, 2 per riconquistare. Beh, almeno sono certo del fatto che c'è uno in Italia contento del fatto che si arriverà alle 16 Leo Turrini, che è mio amico. Comunque da lunedì, per i contenti e per gli scontenti, 2 ore di tutti convocati dalle 14 alle 16, e poi lunedì cominciamo qui a Milano, poi martedì e mercoledì addirittura on the road, saremo a Verona, programma on the road, Verona, Vinitaly, martedì e mercoledì prossimi, ovviamente 2 ore di tempo anche per voi. So se è tornato, abbiamo ribeccato Pardo giù dall'aereo? Eccolo! Ma guarda, com'è andato il volo? Bene, velocissimo. Velocissimo, che hai preso il Concorde? Sì, la roba in un'ora sono arrivato. Ma benissimo. No, dove eravamo rimasti? Nel frattempo io ho parlato di... ho cazzeggiato qua e là, Di che hai parlato? Del Milan, dei progetti di merchandising, che marketing no, del Milan? No, quella mi... vuoi parlarne tu? No, perché, anche perché uno mi deve spiegare l'affermazione della signorina Barbara Berlusconi, Lady Barbara, perché mi piace chiamarla così, secondo cui normalmente ci dicono che con lo stadio si fanno ricavi, al Milan invece devono aver trovato il modo per fare ricavi con una sede. Bellissima, polifunzione, anche allora, vuoi. Sinceramente io invece posso dirti, mi sembra che si debba giudicare quello che ieri è stato presentato, che è interessante, poi da solo non basta, ma insomma che un club importante come il Milan possa arricchire i propri asset di tutta una serie di iniziative di museo, marketing, merchandising, mostre, esposizioni e quant'altro è una cosa secondo me necessaria, e quindi trasformare la sede in qualcosa di diverso può diventare qualcosa che funziona. Cioè, io le cose che sono state presentate ieri da Barbara Berlusconi le condivido al 100%, poi è chiaro che da sole non bastano per tornare a vincere, ma insomma il calcio italiano però deve sforzarsi di trovare delle idee alternative per aumentare i pari in qualunque modo. Quindi da questo punto di vista ieri, mentre quando ci sono state le ingerenze sulla parte tecnica si può discutere, ieri invece secondo me ha fatto quello che è nelle sue deleghe, l'ha poi, fatto molto certo, bene. Poi hai sentito, a linee precise. No, non fatemi domande tecniche, lì parla Galliani, guai, non se ne parla nemmeno, quelle cose non mi interessano. È stata molto come tu pensai, io sono di quelli che pensa che in generale la coabitazione non è in assoluto un'ipotesi possibile. Ma, se i due che coabitano non è questo il caso, ma insomma adesso pare che i rapporti siano migliorati. Se i due che coabitano hanno delle teleghe molto chiare, molto precise, due campi molto molto diversi, molto separati, perché no? Insomma, io non la vedo così diversa. Non lo so, io sono dell'idea che soprattutto nello sport devono comandare in numero dispari inferiore a tre, quindi perché c'è essere uno che deve pigliare le decisioni, perché sennò non vai da nessuna parte. Sempre Silvio poi, appunto. Secondo me bisogna guardare, bisogna analizzare nel particolare. Allora, alcune uscite sono state temerarie, sicuramente. Ci sono state delle invasioni di campo su un'area tecnica, e penso soprattutto alle dichiarazioni dopo Sassuolo, che di fatto hanno portato all'accantonamento di Allegri, che a quel punto non poteva più continuare dopo quella bomba lanciata a Lanza pochi minuti dopo la fine di Sassuolo-Milan. Ma il resto, cioè lavorare su tutta una serie di progetti che vanno nella direzione di un club più moderno, oltretutto a un brand pazzesco, quindi deve semplicemente sfruttarlo, secondo me è molto sano. E che Barbara Brusconi sia una figura che può dimostrare di fare queste cose, di farle bene, ma perché no? Non c'è niente di peccaminoso, semplicemente se veramente ci saranno 150.000 persone che andranno a visitare questo museo a 12 euro, e non lo escludo, perché è mia comunque, ma certo, ma, certo. Ne ha, no? Ma certamente, ma poi sono quelle cose che insomma basta guardare i numeri degli storici musei del Barça, del Real, eccetera eccetera, per capire come, se non vogliamo fare a tutti i costi i fighi, sono cose che alla gente interessano. Ma una cosa prima di Davide e Andrea, che sono due ascoltatori, ma tu come le valuti, visto che ne ho parlato prima, quelle parole di quel dibattito tra John Elkann e un bambino, dice ma l'Inter non vince mai, e John Elkann, non so perché, ma speriamo che continui. Mi sembra qualcosa di estremamente normale. Trovami uno juventino che spera che l'Inter si ripigli, cioè uno. Sì, ma adesso guarda, non so, non conosco benissimo il contesto, ma se togliamo questo, Elkann attacca l'Inter, dice Corriere dello Sport. Voglio dire, se è con scusa, perdonami, sono appena atterrato e sì, non ho chiarissimo di questa cosa qui. Se è come me l'hai posta, assolutamente non ci trovo niente di male, anzi la trovo una battuta, se vuoi, banale, ma comunque divertente. Ma sicuro, ma perché, sicuro, ecco, sicuro. Non è che Galliani, non è che Moratti direbbe qualcosa di diverso, e neanche noi. Ma giusto così, ma dai, ma cosa deve dire? Ma speriamo che si riprenda, perché abbiamo bisogno. Ma certamente, ma cosa vuoi che dica? Speriamo che l'Inter si riprenda, perché abbiamo bisogno di una grande competitor. Ma che cosa vuoi che dica? Un rischio drammatico è quello di in nome, cioè di fare una grande confusione tra piani diversi. Sì. Un conto è incitare alla violenza, un conto è consentire comportamenti appunto violenti, e l'altro invece è vivere il calcio con la rivalità che ci deve essere. Ma per forza. È chiaro che se lei diventa il calcio, che rimane? Veramente 22 maschi in mutande che giocano. Davide, buongiorno. Buongiorno signor. Dica. Buongiorno Genta. Dica. Una domanda molto semplice e veloce. Io e mio figlio ci stiamo chiedendo da un po' di tempo, ma Conte cosa ci vede in Isla? Perché ho visto che stasera giocherà ancora lui. Siamo disperati quando ogni volta che entra in campo. Insomma, Isla a me piaceva da morire quando giocava nell'Udinese, cioè non è improvvisamente imbrocchito, poi è finito ai margini della rotazione. Piuttosto io ribalterei quasi il discorso. Conte è uno che insomma il turnover non lo ama poi molto. Ci sono giocatori che escono dalla rotazione, non entrano più, che cadono in disgrazia, no? E rimangono seduti sempre, eccetera eccetera. Quindi probabilmente il vizio è quello, più che il fatto di far giocare Isla in quella che adesso è una parete importantissima, no Pier? Io adesso vedremo stasera le scelte definitive, bisognerà capire qual è la competizione dominante, perché fino a questo momento la competizione dominante è stata il campionato. Adesso è chiaro che la Roma ha fatto questi 6 punti, in qualche modo si è riavvicinata, può rappresentare un fastidio, anche se guardando il calendario onestamente io non penso che la Juve abbia nulla da temere, e in questo momento secondo me la competizione dove non devi far turnover è l'Europa League, per come la vedo io. Ma certamente, ma certamente. La Juve ha 5 partite da una coppa comunque prestigiosa, 4 partite da una finale nel proprio stadio, insomma mi sembra veramente una grande opportunità, e il campionato non è punto a punto, anche se la Roma sta onorando veramente fino alla fine questa lotta e la sta provando a rendere in qualche modo appassionante. Su Isla mi sembra un giocatore imputo, veramente involuto rispetto a quello dell'Udinese di qualche anno fa. A non giocare mai, a non giocare mai fai anche quella fine lì, Piero. Sì, a non giocare mai fai anche quella fine lì. Devi capire se non gioca mai perché è involuto oppure se è involuto perché non gioca mai. Allora Quagliarella e Giovinco che non si alza mai dalla panca, o lo stesso Vucinic che ha giocato 59 minuti, facevamo il conto l'altro ieri, sì, da gennaio qui. Quagliarella per me è lo spreco più grande. Io ribadisco che ancora non mi do pace, non frega niente ovviamente, però insomma mi sembra veramente un spreco che a gennaio non ci sia stata la possibilità per Quagliarella di andare a giocare da qualche parte, perché secondo me è un giocatore che ancora in un contesto diverso, con un feeling diverso, con un allenatore diverso può dare tanto. Lì c'è qualcosa che non ha funzionato forse anche a livello interpersonale, e poi io credo che ci sia essenzialmente il fatto che alla Juve è difficile, perché allora, insomma, Llorente e soprattutto Tevez, di Osvaldo appena arrivato, insomma Quagliarella è la sesta scelta in questo momento, e però secondo me in 18 squadre su 20 sarebbe titolare. Senti, io un momento di Radio Verità, avete sentito, sì, un trillo, mi è arrivato, sì, un messaggio da Leo Turrini, mio amico, sì, che scrive: con 1.800.000 euro dal museo Barbara ci paga l'autista di Van Persie. No, perché ieri aveva detto con i ricavi potremmo prendere nuovi giocatori. È chiaro che i grandi giocatori però costano molti soldi. Sono d'accordo, però 1.800.000 euro è il bisogno, adesso poi che vengano 150.000 persone, mm-hmm, poi ci sarà la ristorazione, poi c'è il bar di Milanello, mm-hmm, di questo uomo che sto sempre lì nella sede. Io credo che sarebbe assurdo dire ecco il Milan ha risolto i problemi perché sta al museo, però io credo che nella costruzione di un brand, di una società forte che se lo può permettere, è assurdo che non ci sia già, è assurdo che non ci sia, è assurdo che non ce l'abbia l'Inter, cioè questa roba qui è quella assurda, è assurdo che in Italia ci siano, questo sappiamo, un mal costume, tante magliette contraffatte, no? Questo è un problema, mentre in Inghilterra vanno tutti allo stadio con la maglia della squadra. Sono tutti, è chiaro, poi non è che i fatturati che ti può portare il merchandising sono equivalenti ai diritti televisivi, hanno sempre una mancia, però una mancia importante che ti aiuta a costruire identità, e che quindi nel lungo periodo fidelizza, come dicono quelli bravi, il tifoso. Insomma, sono tutte cose sane. Non sicuramente non risolvono sicuramente, ma sono cose che è giusto fare, anzi che siamo in ritardo forse. Andrea, buongiorno. Ciao, Andrea, ciao. Dimmela. Volevo salutare Pier Getta. Ciao. C'avevo una canzone da dedicare ai juventini, però era giusto così per farsi sentire. Vai, vai. Silenzio. Sigla di agenti.it. Sì, per affidi assistenti è garantito Juventus.it, è il meglio sito. Per le partite di campionato ti garantisci il risultato, per tutti i gol inesistenti gli aiutini saranno evidenti. Scusa se poco. Facciamo i complimenti alla creatività, poi il testo ovviamente è discutibile, ma ripeto, mi sembra che faccia parte. Mi sembra che faccia parte della categoria sfottò assolutamente accettabile, anzi invitiamo i tifosi della Juve a comporre liriche e canzoni che vadano invece a supportare la loro causa. È divertente, fa parte insomma del piacere del gioco. Detto questo, Andrea è andato? Cantato è andato. Metteteci via la musica però la prossima volta. Sì, tranquillo, facciamo, ma tu invece per chi sei? Da che parte stai? Sempre Napoli, 100% Napoli. Vabbè, senti Pier, adesso ti saluto che abbiamo finito il programma. Sì. Buon viaggio e ritorno, settimana prossima andiamo a Verona, poi tu vai a Madrid e io dove vado? No, ho paura della risposta degli ascoltatori. No, lascia stare. Dove vuoi che vada? Vengo a Verona con te, no? Mercoledì andiamo a Verona, poi tu vai a Madrid e poi io torno a Milano. Grandi viaggi di tutti i convocati che diventa di 2 ore. Ciao Pier, a domani. Ciao. Grazie Franco Piantini, dottore di questo programma, Fabio Cantadura in regia, ci sentiamo domani dopo GR delle 14.